sodile sodile darah memehnyan cipegang cipegang puak kejut kenalan kulit jiputeng mata api bulat puak ke oji kereteng kawan. Sodile hai dek sodile sodile hai dek sodile sodile hai dek lon jatuh cinta. Sodile hai dek sodile sodile hai dek sodile sodile hai dek lon jatuh cinta. Sodile sodile darah cantiknya jaro jilinte mata pi bulat puna dipasang ego kawan. Sodile hai de sodile sodile hai de sodile sodile hai de lon bir jatuh cinta. Sodile hai de sodile sodile hai de sodile sodile hai de lon bir jatuh cinta. Aduh, soile, cih, penasaran tu. Alah, aku tak tega tu. Lun ngesom som, male ke drom, beke ngeso yang bercinta, hati male, male hati, beta betul dan bercinta. Lon tanyong dek, pat tinggai dek, puak ke dek, puak kenapa? Peten-peten lon, male-male cinta lon, mebele pike-pike. Sodile hai dek, sodile, sodile hai dek, sodile, sodile hai dek lon jatuh cinta. Sodile hai de sodile sodile hai de sodile sodile hai de lon jatuh cinta. Sodile sodile darah memehnyan kulit jiputeng mata api bulat puak ke oji kereteng kawan. Sodile hai dek sodile sodile hai dek sodile sodile hai dek lon jatuh cinta. Sodile hai dek sodile sodile hai dek sodile sodile hai dek lon jatuh cinta. Oh.